Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti, buon pomeriggio, sono Luca Tremolada, sono particolarmente felice perché inizia la settimana e perché partiamo con un tema a me caro, gli sviluppatori di software. Il mio caronte in questo caso è Antonio Dini, che scrive di tecnologia, massimo esperto di tecnologia per Nova. Buongiorno. Buongiorno Luca. E avremo con noi anche tre sviluppatori di software per smartphone. Dico bene? Sì, per i telefonini, gli apparecchi intelligenti, quelli che sono considerati nel bene e nel male la rivoluzione molto recente dei giorni nostri, perché dopo l'epoca del cellulare, in Italia ormai sono più di 10 anni che tutti vanno a giro col telefono cellulare, adesso è arrivata l'epoca in cui si va a giro col telefono intelligente, che è un vero e proprio piccolo computer dentro al quale possono stare dei software, proprio come si faceva con il PC e si continua a fare con il PC. Ecco, la citazione dotta qual è? Microservi. Douglas Copeland, 1995, la storia di un gruppo di programmatori che esce dalla Microsoft e prova ad intraprendere un'avventura vera e propria. Noi quanti anni? Dal 95 al 2009, sono 14 anni dopo, assistiamo a che cosa? Assistiamo a giovani programmatori che escono, o forse non sono mai entrati in grandi multinazionali, per quanto almeno in Italia, e cominciano a creare software che, come diceva Antonio, trasformano l'uso del telefonino e creano dei programmi, delle storie, delle nuove modalità d'uso. Per inventarci qualche nuova applicazione o per suggerire qualche nuova applicazione, telefonate all'824 0024 o scrivete un SMS al 349 238 6666. Ma ora presentiamo, se sei d'accordo, il primo ospite, Emanuele Vulcano, di 23 anni. Sentiamo chi è nella scheda di Antonio Dini. Quando si comincia a programmare il computer, non c'è un'età giusta, ma spesso il talento si riconosce perché è precoce. Emanuele Vulcano ha iniziato a programmare a 10 anni sul computer che gli ha regalato il papà, informatico anche lui. Oggi Emanuele ha 23 anni, sta finendo la laurea specialistica in ingegneria informatica al Politecnico di Milano e ha già 5 anni di esperienza come programmatore su Windows, Linux e Mac. Ma la svolta per Emanuele è arrivata pochi mesi fa, con l'idea di cominciare a fare sul serio e lavorare a progetti davvero innovativi. Su quale piattaforma si può innovare meglio? Si è chiesto Emanuele. La scelta è stata semplice: i telefoni cellulari. Per creare la prima versione del suo primo software che sta in tasca, Emanuele ha lavorato per soli 15 giorni. Così è nato Mover, programma per iPhone che permette di scambiare foto, dati, indirizzi e messaggi tra telefoni semplicemente avvicinandoli. Adesso è il mercato che dovrà decidere se Emanuele è davvero un giovane innovatore. Buongiorno Vulcano. Buongiorno, buongiorno. 10 anni, cioè tu a 10 anni già mettevi le mani nel codice. Ho una bella fotografia con mio padre che mi tiene a cavalluccio davanti a questo terminale verde e nero. Cioè ancora quindi fosforescente quello con lo schermo. Esatto. E lì che cosa... cerchiamo di capire anche come si diventa programmatori. È una bella domanda questa. Un po' si nasce, un po' si diventa come scrittori o pittori. È un talento per la logica, per l'organizzazione della matematica, che poi ovviamente va fatto crescere con basi teoriche. Tra l'altro Antonio, è proprio tu che mi dicevi che sono le sorte degli artisti, i programmatori, cioè non pensiamo a qualche cosa di ingegneristico, in realtà il programmatore è una persona, mi raccontavi, che si sveglia a 1 di notte, comincia a scrivere il codice. Sì, c'è uno scrittore americano che addirittura ha paragonato i programmatori e in generale il mondo degli appassionati di informatica a quello dei pittori, ed è uno di quelli che sostengono che adesso con con la potenza degli strumenti che i programmatori hanno nelle mani a disposizione, stiamo assistendo a un vero e proprio piccolo rinascimento, come fu per i pittori un bel po' di secoli fa. E questo perché? Perché adesso il singolo programmatore può tornare a fare la differenza. Una volta sviluppare software era un lavoro molto complesso che richiedeva tante persone con molte competenze diverse. In alcuni settori è così. Pensiamo che per fare un gioco, un videogioco, ci vogliono alcune centinaia di persone che collaborano, mentre invece per andare a lavorare un po' sul più piccolo, con applicazioni che sono più innovazione che non bella grafica e grandi effetti, basta anche una persona sola. Questo consente, o perlomeno dovrebbe consentire, di tirare fuori le idee che ciascuno di noi ha nel cassetto. Emanuele, fra le altre cose, ha avuto anche un'idea interessante, perché il suo software Mover fa delle cose divertenti. Eh sì, semplicemente è un software che permette di trasferire dati, è una funzione che hanno moltissimi cellulari. Però io gioco un pochettino con questa funzione, trasformando il software in una specie di tavolino, i dati in piccole polaroid, diciamo, che si possono muovere con le dita, e spedirli, per spedirli basta appendere, farli scivolare verso il bordo del tavolo e entreranno nel bordo dell'altro cellulare. Tra l'altro sul Twitter di Novalab24 noi abbiamo pubblicato il sito per andare a vedere poi bene come funziona questo software, ma la cosa da capire è qual è il software, qual è l'applicazione che vorresti inventare e che non è ancora inventato? È una bellissima domanda, perché è una questione un po' di ispirazione. In questo momento non ho un'idea nuova, però l'importante è sapersi guardare intorno, in ogni momento cercare di vedere. Mover stesso è nato dal pensare che cosa c'è che non va con questo cellulare, che cos'ha che si può fare meglio. E tra l'altro mi raccontavi che Mover è stato scelto dalla Apple per entrare nella pubblicità, per cui insomma hai nella pubblicità internazionale, non nella pubblicità italiana. Com'è che è andata? Cioè, ti hanno chiamato, ti hanno mandato una mail? Mi hanno chiamato una domenica pomeriggio dicendo: guarda Emanuele, vorresti essere nella nostra pubblicità? Se sì, preparati una versione del tuo software per martedì. Così, d'emblè. Così, da un giorno all'altro, e dopo qualche ora di panico e lavoro alternati, siamo riusciti. Ecco, ma siete tutti uguali? Cioè, è vero che programmare in Italia, programmare negli Stati Uniti, cioè questo è un mercato dove le barriere d'ingresso, uso una parolaccia, sono comuni a tutti? Oppure, nel senso che io italiano, se ho una buona idea e se riesco quindi a inventarmi, non so, il telefonino che si trasforma in macchina a luci infrarosse, cioè Dini che non mi guarda perché sa che sto dicendo delle sciocchezze, però il telefonino che diventa un gioco strano, lo posso inventare in Italia come lo posso inventare in qualsiasi altro posto? Sì, l'invenzione non ha confini, grazie al cielo. Il problema è quando si va poi a fare tutta la parte che è di burocrazia, di organizzazione legale della cosa, che in Italia è un pochettino più trascinata rispetto magari all'estero. Questo qui è anche una cosa vera ed anche interessante, perché ci sono ovviamente molti modi, è una forma di imprenditoria, ci sono molti modi per decidere come si può lavorare a queste cose, si può lavorare sotto forma di partita IVA, si può costituire una società, e è interessante che poi si creino dei piccoli, tra virgolette, problemi con il soggetto che ti paga, perché c'è un mediatore. Questi software vengono distribuiti tramite una piattaforma, nel caso di Apple, Apple stessa, nel caso di Nokia, Nokia stessa, BlackBerry, la RIM, ormai l'azienda tutti canadese. Hanno il loro piccolo negozio. Il negozio sul telefono, che è stata questa una delle innovazioni più straordinarie per far partire questo mercato, e per esempio il software che lui ha realizzato per iPhone, la società è una società che, se non sbaglio, ha sede nel Lussemburgo, quindi bisogna anche trovare un commercialista o comunque chi ti tiene una contabilità che sia bravo a gestire i pagamenti che provengono da un committente estero. Quindi è un universo in cui l'Italia non si fa mancare quel filo di burocrazia in più che per alcuni può essere difficoltoso. Ecco, ma lei è diventato ricco e famoso, cioè si diventa ricchi e famosi. Vogliamo provare a dare una speranza o un messaggio realistico? Ricchi ragionevolmente benestanti, probabilmente. Ah, beh, però già questo è importante. È importantissimo, sì. E questo, se diventeranno ricchi o ragionevolmente benestanti, lo chiediamo anche a Gino Micacchi, e sentiamo subito nella scheda chi è. Il mondo senza fili è sempre stato il suo sogno. Tante le idee. Tuttavia, ci sono voluti anni prima che la tecnologia arrivasse nelle tasche degli utenti e gli permettesse di realizzarle. Gino Micacchi, 30 anni, laureato in ingegneria delle telecomunicazioni all'Università di Napoli, ha iniziato parecchi anni or sono a lavorare nel settore del software e della rete, sognando le innovazioni possibili del futuro. Proprio all'università è nata, fra le altre, l'idea che sta alla base del suo MobNotes, un software per telefoni cellulari che consente di dire ai propri amici dove siamo e cosa stiamo facendo, con fotografie e brevi note. E ovviamente MobNotes serve anche a chi lo usa per capire che cosa sta accadendo intorno a lui. Il più grande pregio della nuova generazione di telefoni intelligenti, iPhone in testa, dice Gino, è che finalmente hanno fatto capire alle persone che il cellulare può essere utilizzato in tanti modi diversi e innovativi. Ecco, cominciamo un po' a leggere le prime idee che stanno arrivando via SMS. Un ascoltatore, Fulvio, dice: telecomando per box nel cellulare. Cioè, io arrivo con il... vedo che non brillano gli occhi, però, Micacchi, no, non la vedi? No, non è che non brillano gli occhi, che purtroppo parto da una visione forse un po' più pessimista, perché quando ho iniziato, io e anche con il mio socio, Cristian Grassi, che ora mi accompagna nell'avventura di MobNotes, non c'erano le possibilità che ci sono oggi. Ecco, mi piaceva il discorso dell'App Store, come dell'Ovi Store, di tutti i negozi a bordo di un telefono come uno strumento democratizzante. Qualche anno fa tutte queste cose erano per pionieri. Oggi ci si può ritagliare una piccola nicchia, per cui, ammesso che i terminali di oggi permettano di interfacciarsi con un cancello automatico, c'è qualcuno che potrebbe ritagliarsi la sua piccola nicchia e creare un software per cellulare che possa effettivamente risolvere e rispondere a questa esigenza. E chiaro che... Ti interrompo e ti chiedo una cosa, perché questa storia delle nicchie io la trovo molto interessante, perché noi vediamo le nicchie come una cosa piccola, però poi quando si vanno a fare cose per una nicchia bisogna diventare leader di quella nicchia, bisogna diventare famosi in quel piccolo mondo. Come si fa a diventare famosi con le applicazioni distribuite tutte alla pari attraverso lo stesso negozio sul telefonino? Semplificando, il telefono che c'è, il negozio che c'è ad esempio sull'iPhone, ha dentro parecchie decine di migliaia di applicazioni, quindi credo che sia più un problema di visibilità. Ti favorisce, ma dall'altro lato ti rallenta anche. Cioè, molto dipende da quanto il negozio è democratico. Noi abbiamo avuto un'esplosione con il lancio dell'applicazione iPhone, forse anche per un motivo di tempo. Siamo usciti il 3 agosto, siamo un'applicazione che si usa in movimento, perché ti localizziamo e fai sapere ai tuoi amici dove sei, quindi sei in vacanza, pubblichi le foto del mare, lo fai sapere ai tuoi amici che sono lontani e così via. Quindi per noi forse il successo è stato anche un fattore, è stato dovuto anche al fattore tempo, ma non è l'unico. Ci sono anche investimenti, sia in termini di tempo. Noi abbiamo lavorato a MobNotes per 2 anni prima di avere questo boom, ma anche di network, di conoscenze, di una diffusione a priori del prodotto, che poi magari si concretizza in un lancio. È il marketing virale, bisogna che la rete ne parli. Ecco, a proposito di rete, invece, dagli SMS arriva: un mover costa 1,59 euro, too much. Beh, 1,59 euro non è neanche un pacchetto di gomme, se vogliamo essere sinceri. Ecco, perché l'altra cosa che forse non abbiamo detto è che il prezzo di queste applicazioni raramente supera i 7 euro, no Antonio? Sì, oscilla molto. Diciamo che se vogliamo fare la distribuzione lungo una curva, ci sono pochissime applicazioni costose, tipicamente tra quelle che fanno media i software per la navigazione stradale, no? I TomTom, le navigazioni di questo tipo, e siamo nell'ordine della 60 euro. Ah. Sì, però è un software che ti fa girare tutta Europa, ce ne sono vari comunque di varie marche, mentre la maggior maggior parte oscilla fra l'euro e 99 e 99 centesimi, e poi c'è un'ampia pletora di software anche gratuiti o di versioni light dei software a pagamento, nel senso che c'è chi mette a disposizione una versione ridotta con poche funzioni del suo software, così che se piace uno poi può decidere di passare a quell'altro a pagamento. Un altro suggerimento di applicazione scrive Nello da Pistoia, applicazione facile richiesta del telefonino, telecomando per TV, cancella e porta, tutto insieme, tutto integrato. Cioè qua l'idea di trasformare il telefonino in una sorta di telecomando, perché siamo italiani, non c'è niente da fare. Però vede, questo è un software che esisteva almeno 4-5 anni fa, quando non esisteva ancora il Bluetooth, e i telefonini erano dotati di un ricevitore infrarossi. C'è qualcuno che ha realizzato un software che, programmando il ricevitore infrarossi del telefonino, controllava il televisore. Fantastico. Solo che ora il ricevitore infrarossi non c'è più su nessun telefonino, certo. Quindi dobbiamo aspettare i televisori intelligenti collegati magari in rete wireless per poterli controllare. Una domanda a bruciapelo sia a Micacchi che a Vulcano: quanto è che si tengono i negozi? Nel senso che quell'euro e 59 quanto va nelle tasche del dottor Vulcano? Dottor Vulcano, ci dica. Apple ha questa politica per cui prende un terzo, poi ovviamente bisogna pagarci le tasse su quello che rimane, però è alta, bassa, lo dica, non ci sente, no, ci sono, non ci sente. Ci sono altri che prendono anche persino all'80%, per cui è molto molto bassa, è una cosa. Quindi va bene. Anzi, anche per lei, Micacchi, nel nostro caso l'applicazione è distribuita gratuitamente, quindi anzi invoglio tutti andarla a scaricare. E si scarica gratuitamente, non abbiamo ancora mai capito se ci sono delle penalizzazioni o dei plus all'interno degli store per le applicazioni distribuite gratuitamente. Sicuramente hanno meno appeal per il mediatore, in questo caso Apple oppure Nokia, però noi abbiamo avuto un buon risultato dando l'applicazione gratuita, anche perché il nostro modello è basato su una creazione di una community molto vasta e su un business model che si realizzerà nel tempo. Dimmi, Antonio. Faccio l'uomo con i capelli bianchi, come puoi vedere. Mi ricordo una cosa: quando intervistai per la prima volta 4 anni fa, prima che esplodesse tutta questa cosa rumorosa dei telefonini, il genio, il creatore del successo della Nokia, che è un signore finlandese che si chiama Anssi Vanjoki o Vanjoki, non ho mai capito per bene come si pronunci, che mi disse: guarda, il telefonino è il telecomando della vita. E mi sembra che anche le richieste dei nostri ascoltatori vadano in questa direzione: uno strumento per azionare altre cose e fare altre cose. Ecco, però adesso ti spiazzo un attimo perché Marina da Milano dice: lancio una sfida, che perderà un cellulare che ti vuole bene, ma veramente bene, appassionatamente. Questo è bello, cioè la trasformazione dello strumento del cellulare, che è molto giapponese, se vuoi. Ma il Tamagotchi? Sì, che probabilmente c'è anche un bisogno di affetto nei confronti delle tecnologie. Beh, da questo punto di vista Mobnotz non ti vuole bene, ma ci sono tanti utenti che ti vogliono bene, nel senso che quello che stiamo vedendo ora, che tanta gente inizia a usare la nostra applicazione, che vediamo innanzitutto persone che si ritrovano, amici che si ritrovano, persone che condividono gli stessi interessi, frequentano gli stessi luoghi e si ritrovano. Quindi da questo punto di vista forse io mi vedo come un'applicazione che ti vuole bene, ecco. Senti, ho una domanda io per loro. Dai. Due. Voi sviluppate software e quindi presumo che utilizziate anche questi telefoni di cui stiamo parlando. Quali sono i software fatti da altri di cui non potete fare a meno, che sono sul vostro telefonino da una vita? Io devo dire che ci sono dei modelli per me, delle persone di riferimento che fanno software, che seguo. Per esempio c'è Twitterific, fatto dalle persone di Icon Factory, che è una... Per Twitter è fantastico. Twitter è anche fantastico. Questo lo metteremo sul Nova Lab 24. Quello lo uso anch'io, bello. Anch'io. È gratuito, eh? Sì. Diciamo sono proprio dei modelli di design, dei modelli che ci fanno vedere che cosa è possibile fare spingendo il dispositivo fino nei dettagli, fino anche nei più piccoli dettagli. Certe animazioni, certi colori, certe sembrano sciocchezze, ma concorrono a fare un tutto unico che fa il prodotto. Nova Lab 24. Bentornati Luca Tremolada, Antonio Dini, siamo circondati dagli sviluppatori. Allora, Micacchi, cosa c'ha nel cellulare? Così, domanda bruciapelo. Chiaramente non voglio fare pubblicità ai concorrenti. Bravo. Chiaramente guardiamo anche cosa fanno i concorrenti, però come applicazioni che realmente uso, sicuramente c'è Shazam. Che è un'applicazione che ti permette di sentire un brano alla radio, per strada, di taggarlo, riconoscerlo e poi scaricarlo. Anche dalla regia lo conoscono e mi fanno gesti compiacenti. Per me che sono un appassionato di musica e musicista, per me è la... Leggo velocemente altre due idee che arrivano dagli ascoltatori. Francesco si domanda: un'applicazione Telepass per pagare le autostrade? In realtà c'è già. È il Telepass, l'hanno già inventato. Vincenzo da Poggia si domanda: che cosa si fa per i non vedenti? Qui vi voglio. Vulcano. Apple, nel caso specifico di Apple, ha fatto dei passi da gigante il nuovo iPhone. Introducendo il text-to-speech, per cui una persona che tocca lo schermo sente delle descrizioni di quello che sta succedendo e può manipolarlo anche senza vederlo, quindi anche se è non vedente. È una questione che riguarda più i produttori cellulari che i singoli sviluppatori, perché quindi il produttore di cellulare non vi tocca. L'ultima cosa prima di chiamare in causa un nuovo ospite sviluppatore: Francesco da Milano propone un software per musicisti a riconoscimento vocale, ovvero canti una melodia e lui la trasforma e può sistemare con vari strumenti, poi si passa all'arrangiamento. È confusa perché l'ho letta io in maniera confusa, però invece è molto chiara. Sì, ma sembra bello. Quello della musica oltretutto è uno degli spazi in cui l'informatica sta veramente facendo tanto. Per computer, per personal computer, esistono addirittura software a cui fai sentire una canzone e loro tirano fuori la partitura, cioè scrivono. Se consideriamo che storicamente dagli anni 70 la maggior parte degli artisti pop non sanno leggere la musica, certo, e tantomeno scriverla, questa qui sarebbe una gran comodità. Salva. Esattamente. Abbiamo in collegamento anche Mario Fumagalli, presidente del consorzio Mixel. Il consorzio Mixel è formato da ST Microelectronics, Colorado Film, alias Gabriele Salvatores, Media Italy ed Edalo. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ha sentito quante idee arrivano dagli ascoltatori? Evidentemente c'è ancora spazio per inventarsi applicazioni, per creare prodotti, idee. Direi assolutamente di sì. E anche noi passiamo il nostro tempo cercando di trovarne qualcuna. In particolare rispetto così alle cose che sono passate, volevo dire che noi stiamo effettivamente attualmente, diciamo, noi ci occupiamo di sviluppo in particolare di videogiochi, ma non solo, e relativamente ai videogiochi ne stiamo progettando uno proprio per non vedenti. Ah, ecco, proprio a bomba. È stata una collaborazione che abbiamo avviato circa 6-7 mesi fa con un ragazzo che appunto ha lavorato per un periodo presso l'Istituto Nazionale dei Ciechi, e lui ha cominciato a sviluppare questa idea per i non vedenti. Ovviamente non esiste un mercato vero e proprio per i non vedenti, però stiamo definendo un gioco che può essere, diciamo, fruito con soddisfazione sia dai vedenti che dai non vedenti. Antonio, qual è il mercato in questo momento, l'applicazione, la tipologia di applicazione che in questo momento funziona di più? Sui telefoni cellulari prodotti da sviluppatori, da terze parti, sono sicuramente le applicazioni per il tempo libero. Le applicazioni a scopo professionale ne esistono di vario genere, sia di nicchia che anche più generali. Basta pensare al classico pacchetto per la produttività, videoscrittura, foglio di calcolo, eccetera. In realtà per adesso non interessano la grande maggioranza degli utenti. Se si vanno a vedere le classifiche di che cosa viene scaricato di più per le varie piattaforme che abbiamo citato oggi, la maggior parte sono giochini oppure cose per il social networking, cioè applicazioni che consentono di stabilire delle relazioni a distanza con gli amici. La cosa che mi sembra molto interessante di quello che stava dicendo Fumagalli, e che infatti vorrei anche riprendere, è che però esistono anche degli altri modi per vedere delle applicazioni che consideriamo assolutamente normali, cioè un gioco e ci preoccupiamo di fare fare un gioco che possa essere, ovviamente, oltre che divertente, adatto a persone che hanno una disabilità. Oppure io credo, se non ho capito male, che ci siano state, quando ci siamo sentiti prima, dottor Fumagalli, anche delle cose fatte nel settore, ad esempio, della sicurezza del lavoro, quindi, no? Sì, esatto. Noi circa 6 mesi fa abbiamo sviluppato una serie di idee che inizialmente sembrano un po' bislacche, no? Perché uno dice, vabbè, il cellulare nella sicurezza sul lavoro, quali possono essere i contatti? In realtà noi ci eravamo occupati per un po' di anni, diciamo, di applicazioni multimediali nel settore della sicurezza, e quindi avevamo sviluppato una certa, diciamo, sensibilità rispetto a questo tipo di problematica. E così, analizzandone le sue possibili campi di applicazione, ci siamo accorti che in realtà il cellulare è quasi un oggetto ideale per la sicurezza. In che senso? Nel senso che, per esempio, tipicamente diciamo, le applicazioni multimediali venivano usate per 2 motivi, per la formazione e per la consultazione. Quando io devo formare molte persone, magari che svolgono attività simili, attualmente non c'è modo, uno deve prendere le persone, portarle in aula e fargli dei corsi. Questo ha una serie di controindicazioni, perché devo interrompere le persone che svolgono il loro lavoro, devo spostarle in un'aula, faccio tutta la formazione in un momento molto concentrato, e poi magari le persone in realtà useranno queste informazioni nei mesi successivi e magari dimenticheranno le informazioni che hanno apprese. In particolare la gente non ci pensa, ma ci sono delle aziende che hanno delle situazioni di lavoro molto complesse, per esempio chi si occupa di impianti elettrici piuttosto che chimici, hanno delle manuali di procedura sulla sicurezza che sono delle vere bibbie, dei veri tomi, sono letteralmente. E uno dovrebbe in teoria ricordarsele tutte. Ecco, io vorrei coinvolgere anche Andrea De Marco, che ci sta ascoltando, coordinatore editoriale di Applicando, una rivista dedicata al mondo Apple. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Le giro subito un SMS di Nino da Bari, il quale si domanda: a me interesserebbe sapere se e quando una persona ha un'idea tecnologica, ossia ha in testa un nuovo prodotto, come si fa a rivolgersi a qualcuno e quindi raccontargli l'idea senza farsela rubare? Attenzione. Perché questo qua è un punto mica da ridere, nel senso, sì, che bello, partecipo alla trasmissione, do l'idea, poi qua ci sono i furbacchioni dei programmatori che la traducono subito. Infatti loro sono lì che sogghignano, ma non hanno mica detto niente. In realtà io, riagganciandomi anche a quello che stavate dicendo in studio, credo che le difficoltà nel nostro paese siano più di accesso ai finanziamenti e di arrivare al mercato, più che di avere una buona idea e di realizzarla dal punto di vista tecnologico. Forse gli sviluppatori che avete ospiti possono confermare questo tipo di difficoltà. Lo confermate? Vedo che Mikaki dice sì con la testa. Sì, noi che siamo una SRL attiva da 2 anni, con un business plan su molti anni, con un'applicazione distribuita gratuitamente, confermo, la difficoltà è trovare fondi, anche se però qualcosa si sta muovendo. Poco. In che senso? Perché si dice sempre qualcosa si sta muovendo, ma è un intercalare o si sta muovendo realmente qualcosa? No, si sta muovendo perché noi abbiamo trovato qualcuno che ha creduto nel progetto e che ha messo una piccola monetina nel salvadanaio, è ancora un piccolo investimento, ma ci ha consentito di arrivare fin qui. E comunque non è l'unica entità a essersi fatta avanti, è chiaro che ci siamo proposti anche noi in giro, però un po' la credibilità del progetto, un po' la credibilità del piano con cui ci si presenta ad un investitore rispetto a qualche anno fa, oggi c'è un interlocutore, più di un interlocutore con cui parlare. Non voglio far nomi, però non ci sono fare nomi perché sto guardando dissidio. Dritto negli occhi Antonio Dini, che faremo una trasmissione su dedicata a questi nomi. Dedicata ai nomi, dedicati a chi in questo momento chi crede poi nei ragazzi, chi comincia a dare un po' di benzina, carburante per permettergli di realizzare cose. Io volevo chiedere al dottor Fumagalli, perché lui in realtà presiede e guida una realtà più strutturata, un consorzio con un certo numero di aziende partner, se anche per chi è un po' più grosso è facile o più difficile rispetto ad altri mercati muoversi in questo settore. Ma intanto io volevo dare il mio contributo rispetto al, diciamo, al dilemma che avete presentato, quello della tutela delle idee. In realtà anch'io sono convinto che, diciamo, purtroppo di idee in tanti hanno delle buone idee. La vera difficoltà è avere la forza di trasformare le idee in un reale progetto, riuscire a arrivare sul mercato. Quindi la tutela dell'idea non è un vero problema. Il vero problema, appunto, è avere le risorse sia finanziarie, che manageriali, che anche caratteriali, per resistere alle difficoltà che ci sono agli inizi e riuscire ad arrivare a portare, a concretizzare le nostre idee. Per quanto riguarda noi, siamo stati abbastanza fortunati, perché lei potete immaginare che una società come Setimico Electronics non è facile da coinvolgere in un progetto come il nostro. Però invece ho trovato, appunto, grande apertura mentale, grande disponibilità, e noi 3 anni fa siamo riusciti a partire con questo consorzio. E devo dire anche aiutati da finanziamenti pubblici. Quello dei finanziamenti pubblici infatti è un tema molto interessante. Io vorrei chiedere una cosa ad Andrea De Marco, se abbiamo ancora un po' di tempo. Abbiamo un minuto. Andrea De Marco, sì. in meno di un minuto, insomma, questi telefonini adesso stanno consentendo veramente a chi sviluppa software di innovare anche molto. Sì, io mi volevo agganciare a quello che dicevate prima, è uno spunto molto interessante sulle nicchie. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di dati forniti da Apple nel recente evento di lancio dei nuovi iPod, di 1,8 miliardi di download, 100 milioni di account su iTunes, cioè quindi anche le nicchie, anche questi mercati di nicchie che si sviluppano sulla coda lunga, così efficacemente descritta da Chris Anderson, sono comunque una massa di potenziali utenti di questo tipo, su numeri così grandi, sono nicchie importanti. Quindi farei attenzione a parlare di nicchie, sì, sono nicchie però di numeri grandissimi. Quindi sono nicchione, sono nicchie grandi. Esatto. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Il Dipartimento di Giustizia statunitense contro Google Books. L'ufficio federale ha chiesto al Tribunale di New York di rigettare l'accordo con gli editori che permetterebbe a Google di creare un'enorme biblioteca digitale online. Secondo il Dipartimento di Giustizia, occorre rendere l'accordo conforme alle norme sull'antitrust e il diritto d'autore. Pagare per le news online? Gli americani non ci stanno. Secondo una ricerca statunitense, solo il 5% degli utenti del web sarebbe disposto a pagare le notizie su internet. Secondo il rapporto, se i giornali online diventassero a pagamento, i 3/4 degli utenti si sposterebbero su siti di informazione gratuiti alternativi. Un segnale per Rupert Murdoch, convinto che gli utenti saranno disposti a pagare per accedere ai suoi website. Nasce Team Earth, il social network per salvare la foresta pluviale. Il sito è stato concepito dagli ambientalisti di Conservation International per unire aziende, ONG, studenti e politici nella lotta alla deforestazione tropicale. All'iniziativa hanno aderito anche le grandi corporation come Dell e Starbucks. A partire da novembre tutti potranno iscriversi collegandosi a www.teamearth.com. Un ufficio remoto sotto il segno di Microsoft. Sono ormai alla fase finale i test per il lancio di Office Web Apps, versione online della suite per ufficio più usata al mondo. Il servizio, di cui non si conosce ancora la data di attivazione, includerà una versione light di Word, Excel, PowerPoint e OneNote e punterà a contrastare Google Docs, analoga applicazione online del colosso di Mountain Views. 5,6 milioni di copie in 2 settimane. Anche per Apple, abituata a grandi exploit di vendite, il lancio del nuovo sistema operativo Snow Leopard è un successo inaspettato. A facilitare le vendite sarebbe stato in particolare il prezzo, estremamente concorrenziale, previsto per l'aggiornamento: $29 per un singolo computer e $45 per un family pack da 5 postazioni. Torniamo con Nino da Bari, che durante le informazioni sul traffico ho già scritto, però insomma non mi avete ancora risposto. Come faccio a ho un'idea fantastica, però non la so realizzare, non voglio che qualcuno me la rubi. Vulcano. Io non sono un avvocato, quindi probabilmente qualcuno con un po' di più di esperienza di me ci vorrebbe, però al di là di tutti gli strumenti legali che ci sono per tutelare un'idea, brevetti, copyright, eccetera, eccetera, l'importante è, se uno non ha le capacità per realizzarla in proprio, è la fiducia. avere persone di fiducia che possono partecipare a questa impresa, io la butto lì, io do la mail di novalab24@radio24.it. Antonio Dini mi guarda e già ride, c'è anche il Twitter, se vuoi darcela a noi questa idea. Tu fidati, mi raccomando. Fidati, non è male, però insomma, anche perché non abbiamo grandi capacità, no, ce l'abbiamo un po' di capacità tecnologica di tradurla. Mi cacchi, una battuta. Sempre sul tema della fiducia, si trova un amico. Chi trova un amico trova un tesoro. Quello che è certo è che abbiamo fiducia che domani Novalab 24 torna, si tornerà sicuramente alle 4. E ora vi salutiamo, arrivederci. Arrivederci.